concentrazione, ritmo, velocità. C'è follia, seguire adesso il ritmo che picchia dentro il cuore, è magia, è semplice energia. Stacco! Bello.